Sole, mare, cielo e un albero di melo. È una vecchia luna che sorride un po'. Guardami negli occhi se tu sei sincero. Chiudi quella porta, non partire più. Cantami cos'è la nostalgia dei giorni vuoti. Cantami la notte, sognerò. Parlami di mari e di sirene, di storie antiche, di tesori e di tabù. Io ti ascolterò, amica mia. Quando vuoi volare, dillo tu. Sole, mare, cielo e un albero di melo. È una vecchia luna che sorride un po'. Guardami negli occhi se tu sei sincero. Chiudi quella porta, non partire più. Tagliano i capelli e le illusioni, poi si resta soli e non mi va. Parlami di maghi e di fortune, notti di luna chiare, calde di falò. Io ti aspetterò per non morire. Cantami l'amore, ti amerò. Sole, mare, cielo e un albero di melo. È una vecchia luna che sorride un po'. Guardami negli occhi se tu sei sincero.